Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Buongiorno a voi e benvenuti. Iniziamo con una buona notizia. Gli ottimisti vivono di più e meglio. Numerose ricerche confermano quello che già la saggezza popolare sapeva. Non a caso si dice cuor contento il cielo aiuta. Allora alleniamoci a trovare anche nel cielo più nero un pezzetto di azzurro. Fissiamo quel frammentino e teniamo alta la speranza di farcela. E intanto che la cercate, andiamo a sentire una ricerca. Ridere fa bene al cuore. Se ne è accorta anche la ricerca scientifica, che dopo aver misurato per anni la ricaduta sul sistema cardiovascolare delle emozioni negative, come ad esempio lo stress, l'ansia o la depressione, ha cambiato paradigma, concentrandosi sull'analisi degli effetti delle emozioni positive sul nostro cuore. La Harvard School of Public Health di Boston ha recentemente condotto una ricerca dalla quale è emerso che, a parità di tutti i fattori di rischio tipici per il cuore, quali obesità, fumo, sedentarietà, eccetera, chi è più ottimista ha un rischio dimezzato di andare incontro a un qualsiasi evento cardiovascolare rispetto al meno ottimista. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno passato in rassegna oltre 200 studi scientifici condotti su questo argomento, indagando attraverso quali meccanismi funziona l'ottimismo e verificando che chi è contento e positivo adotta stili di vita più salutari, mangia in modo ordinato, pratica attività fisica e dorme con regolarità. Inoltre, l'ottimismo e il buon umore contribuiscono a tenere sotto controllo la pressione del sangue e altri parametri importanti per restare in salute. Insomma, sembra proprio che guardare il lato positivo delle cose e prendere il sorriso come una filosofia di vita sia una medicina sempre più efficace. Insomma, come a dire, un pensiero positivo al giorno leva il cardiologo di torno. Ma noi ne abbiamo uno in linea, è il dottor Massimo Gualerzi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma, l'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica e autore di un libro di cui abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, che ha scritto con Claudio Rinaldi, si chiama Super Salute. Dottor Gualerzi, dobbiamo pensare positivo, insomma, in questo momento così nero, anticipavo in apertura, cerchiamo un frammentino di azzurro e cerchiamo di farcela. Beh, questo secondo me è un messaggio assolutamente molto bello e molto positivo e che fa bene in questo periodo. In un certo senso possiamo essere gli operatori consapevoli della nostra salute, agendo sulle nostre emozioni, quindi semplicemente provando ad agire sulle nostre emozioni. Banalmente tutti abbiamo provato che quando, non so, sorridiamo, anche avendo un malessere, questo malessere tende a scomparire. Quindi diciamo che la mente è in grado di condizionare assolutamente il nostro corpo. E ci sono tanti esempi, si possono fare quanto la mente influenza il corpo. Basta pensare, non so, ad esempio, se immaginiamo in questo momento di assaporare o di succhiare una fetta di limone, produciamo subito saliva, no? Ecco, questo è il legame che esiste spesso tra il nostro pensiero e il nostro corpo. Se immaginiamo invece emozioni positive o luoghi che che ricordiamo con gioia, ecco, questo scatenano dentro il nostro corpo delle reazioni che vanno a contrastare proprio gli effetti negativi dello stress. Quindi pensare positivo aiuta sicuramente a produrre sostanze, a rigenerare il nostro fisico, che appunto servono per contrastare quelle sostanze cattive, negative, che vengono proposte e vengono prodotte dallo stress. Dottor Gualerzi, non è un modo di dire, ma la ricerca lo dimostra, quindi sforziamoci, troviamo un pensiero, un'immagine che ci aiuti a in qualche modo stare bene, a promuovere il nostro benessere. 800 24 00 24 se volete raccontarci che cosa state facendo per voi, per il vostro cuore, perché oggi parleremo anche e soprattutto di cuore, quali attenzioni gli dedicate, come si fa sentire. 349 238 6666 se volete scriverci, potete seguirci naturalmente su Facebook e anche su Twitter. L'hashtag di oggi è prevenire con il sorriso. Rido, rido di tutto, rido, non faccio apposta, rido, questo è il mio mestiere. Rido, se cadete ni rido, per Don Cognato rido, è quasi un mio dovere. Un po' di ottimismo, come insegnava il grande Iannacci, e poi di quale altra attenzione ha bisogno il nostro cuore, che è il nostro motore, ma anche la sede delle nostre emozioni, per stare bene? 800 24 00 24, buongiorno al dottor Gargiulo, che è qui in studio con me, rassicurante e sorridente. Buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori, a cui dedichiamo un sorriso a questo punto. Dottore, la prevenzione non è fatta solo di rinunce, di divieti, ma anche, e noi cerchiamo di dirlo ogni giorno, di attenzioni piacevoli. Questa è anche un po' la sfida della puntata di oggi. Per questo possiamo dire ai nostri ascoltatori: se vi sta a cuore il cuore, restate e chiamate. Esattamente, restate chiamate, ascoltateci, e quindi questo già è un motivo per avere un sorriso in più. Ma la prevenzione, come diceva giustamente, non è detto che debba essere fatta di sacrifici. In particolare chi non ha una patologia come può essere il diabete o già una cardiopatia, e che quindi deve stare un po' più attento, e poi vedremo più avanti che anche lì si può stare attenti con un sorriso, deve poter pensare che la prevenzione si fa in due modi fondamentalmente. Da una parte una prevenzione attiva, che è quella di evitare abitudini negative, quindi cercare di migliorare delle abitudini. Si impara e si insegna poi ai nostri figli, e dall'altra una prevenzione che è un pochino più passiva, che è quella di farsi dei controlli periodici e costanti, dei controlli che servono a vedere un po' come funziona poi il cruscotto del nostro organismo. Uno di questi controlli, forse il più importante di tutti, è la pressione, la misurazione della pressione. Il valore della pressione ci dice esattamente come il nostro cuore sta lavorando, come questo muscolo sta pompando il sangue in giro per il nostro corpo, e quindi che cosa ci dobbiamo aspettare dalla sua funzione. Controlla la pressione è stato lo slogan della Giornata Mondiale della Salute, che si è celebrata domenica scorsa, il 7 aprile. Un invito che però non sempre viene recepito. Ci provi lei allora, dottor Gargiulo. Bene, direi che mi fa piacere partire da un aneddoto. Un medico, e i miei colleghi lo sanno bene, ha un terrore sacro, che è quello del paziente che, venendo magari in studio per una ricetta, dice: dottore, già che ci siamo, mi misura la pressione. E tutti i miei colleghi subito, perché magari abbiamo tempi stretti, perché... Ecco, io vorrei lanciare un invito ai miei colleghi. Sì. Quando viene il paziente per ritirare la ricetta, magari ditegli: ma perché già che c'è, non misuriamo la pressione? Quindi una prevenzione attiva, che il medico di famiglia già fa molto e che può ancora aumentare. Ancora però diamo un consiglio ai nostri giovani ascoltatori, giovani adulti, che sono quelli che meno si controllano. Insomma, una passeggiata dal vostro medico di famiglia per un controllo di pressione è un gesto molto semplice, vi impegna pochi minuti e vi può dare questo indicatore importante, questo valore che è fondamentale. Tra l'altro, questi sono tempi molto duri per la nostra pressione, che a causa della crisi e dello stress che da questa deriva si impenna, schizza. Risultato, dottor Gargiulo, ci sono ipertesi spot, sono picchi momentanei che però alla lunga possono creare problemi. Sì, effettivamente in uno studio del professor Mancia, che è il presidente del congresso annuale della Società Italiana dell'Ipertensione, è venuto fuori che esistono queste ipertensioni spot, che sono legate molto spesso allo stress. Lui ne aveva identificate 7 categorie, che sono un impiegato affaticato e non gratificato, il giocatore di poker, lo studente in prossimità degli esami, insomma tutte cose che noi già... L'automobilista ancora, l'amante, il tifoso. L'amante. Ecco, quella dell'amante, lì ci sarebbe un bel capitolo da aprire. In preda ad ansia da prestazione. Per cui tutte queste cose che portano ad avere questo aumento di pressione, che in certe situazioni è quasi fisiologico, ma in certe altre è eccessivo e può a lungo andare, ripetersi troppo spesso, portare ad un'ipertensione stabile e quindi a un danno per il cuore. Vi rinnovo l'invito, raccontatemi oggi che cosa fate per il vostro benessere, che tipo di prevenzione piacevole adottate. Trucchi, consigli, suggerimenti, 800 24 00 24, vogliamo tenere sotto controllo lo stress, ne stiamo parlando molto in questi giorni, uno stress che marcia contro il nostro benessere, una sorta di freno a mano, e lo vogliamo fare adottando delle piccole strategie, dei piccoli cambiamenti quotidiani, ma molto piacevoli. Dottor Gualerzi, lo stress infatti non possiamo evitarlo, ma possiamo contrastarlo o cavalcarlo, e abbiamo tanti strumenti a disposizione. Li usiamo un po' come gli attrezzi di una palestra e quindi ci alleniamo. Da che cosa cominciamo? Beh, appunto, può essere un buon surrogato di un'attività fatta in palestra anche la semplice, ad esempio, respirazione. Noi possiamo allenarci a resistere allo stress o a percepirlo in modo diverso. Non sempre lo percepiamo nello stesso modo. E l'allenamento in questo fa molto bene. L'allenamento si chiama training autogeno, meditazione, che forse sono cose un pochino più complesse e bisogna impararle, mentre la respirazione è una cosa assolutamente banale. Immagini che negli Stati Uniti la Food and Drug Administration, che è un po' l'ente che controlla appunto le prescrizioni farmacologiche, ha diciamo avvallato la prescrizione di alcuni apparecchi che diciamo indossati a modi vecchio Walkman o di iPod, come è più moderno dire adesso, no? Riescono a elaborare delle melodie nell'orecchio degli utenti che gli permettono di rallentare il proprio respiro fino ad arrivare a 6 respiri al minuto. Noi normalmente ne facciamo 12. Ecco, quando respiriamo così lentamente, anche se non siamo molto capaci di utilizzare il diaframma, involontariamente lo utilizziamo, perché quando rallentiamo il respiro dobbiamo aumentare il volume della nostra aria, quindi andiamo a utilizzare tutti i muscoli. Ecco, respirare così lentamente utilizzando il diaframma è uno degli elementi che impatta di più in assoluto sulla gestione dello stress e sugli effetti che lo stress dà sul nostro organismo. Quindi è per questo diciamo anche spesso tirare un sospiro di sollievo, perché infatti per allentare l'inspirazione, ecco, avvengono queste modificazioni molto positive. Dottor Gualerzi, scusi, volevo dirle, lei lo sa che noi sulla pagina di Essere Benessere, in tempi non sospetti, insieme a Daniele Belloni, che è un insegnante di yoga e meditation training, abbiamo proprio registrato una meditazione, una respirazione da portare con sé, si può scaricare, ce la si mette nelle cuffiette, perché proprio il nostro invito era portatevela con voi e utilizzatela nei momenti in cui sentite che la pressione sta salendo, intesa come pressione da stress, oppure nei momenti in cui, perché no, stiamo bene e vogliamo provare a stare meglio. Dottor Gargiulo, lei invitava i suoi colleghi a misurare la pressione quando arriva un paziente. Bisognerebbe anche trovare dal medico di famiglia un invito a misurare bene il respiro, cercare un po' di suggerire delle tecniche di rilassamento, lo fate? Sicuramente questo sarebbe un'ottima cosa, direi che forse ancora non è fatto molto e non è seguito molto, però potrebbe essere un'ottima cosa, anche perché in questo periodo fra l'altro ci sono sempre più spesso i momenti di ira, i momenti di rabbia, e questi momenti sono dannosissimi per il nostro organismo. Prevenirli con delle tecniche che consentano di abbassare il livello della tensione, quindi soprattutto queste tecniche respiratorie, potrebbe essere di grosso aiuto. Bisognerebbe riuscire a imparare noi medici per primi come poter contrastare e dominare queste situazioni di tensione, che poi alla fine della giornata diventano belle pesanti, perché se uno se le porta appresso tutto il giorno fatica parecchio alla fine anche per addormentarsi certe volte. È vero. 800 24 00 24 se volete intervenire con i vostri dubbi, le vostre domande, ma anche suggerendoci esempi di prevenzione piacevoli. Noi vi abbiamo suggerito il pensiero positivo, il respiro, che diventa uno strumento straordinario per il nostro benessere, perché abbiamo visto che il respiro racconta di noi, il suo ritmo esprime molte volte il benessere o il nostro malessere, ma il respiro può anche diventare strumento di diagnosi. In linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Giovanna Luini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Medico responsabile della comunicazione scientifica IEO. Insomma, un respiro ci salva e ci aiuta comunque nelle situazioni difficili, in quelle più piacevoli, ma aiuta anche il medico a fare diagnosi. Beh sì, i medici in teoria conoscono tutti la cosiddetta semeiotica, che non è altro che l'arte di guardare le persone. Con la moderna medicina, con gli strumenti diagnostici che abbiamo, la TAC, la risonanza, forse si perde un po' questo talento. In realtà è un peccato, perché la prima diagnosi si fa guardando la persona. E allora, quando guardo una persona, cosa faccio? Noto come respira, il numero dei respiri, la frequenza di questi respiri e come sono anche, perché esiste un respiro profondo, un respiro regolare oppure no, oppure un respiro superficiale. Faccio un esempio: quando intervengo, augurandomi di non doverlo fare mai, su un incidente stradale, capisco se una persona, per esempio, sta rischiando di avere un'emorragia interna, se ha un respiro molto rapido e superficiale, perché quando esiste una perdita di sangue, il cuore fa più fatica e insomma il respiro cambia, e non c'è solo l'agitazione, c'è anche un danno organico che rende il respiro differente. Un altro aspetto del respiro, per esempio, è l'odore del respiro, lo sappiamo tutti con i bambini, no? Stiamo attenti al fiato, all'odore di acetone, una cosa molto banale, ma insomma che facciamo tutti. Oppure la diagnosi sul respiro quando si sospetta un'ulcera, l'Helicobacter, no? Si sa che alcune cose adesso si cercano con il respiro, il test del respiro. Insomma, in sintesi, i medici il respiro devono considerarlo e devono guardarlo. Quando ho davanti una persona osservo tutto, la visito, guardo gli esami, ma soprattutto osservo il respiro. Quindi, dottoressa Luini, se sentiamo che il nostro medico ci tiene un po' il fiato sul collo, capiamo che lo fa per il nostro benessere. Lo fa per il nostro benessere. Noi non ci rendiamo conto, ma gli diamo le diamo, se il medico è donna, tanti bei messaggi o brutti messaggi. Bisogna stare attenti, perché una persona può mostrarsi al medico compassata, controllata, può dire sto bene. Se il medico è capace di guardare, si accorge di alcune cose che magari non vanno e può aiutare meglio. Grazie alla dottoressa Luini per essere stata con noi. Ci sentiamo prossimamente. Buona giornata. Grazie a voi. Abbiamo gli ascoltatori. Luigi, buongiorno, da Roma, poi Angelo dalla provincia di Vicenza e Anne-Marie dalla provincia di Grosseto. Luigi, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Come dicevo la vostra collega Centralino, io cerco di affrontare la vita nel modo più semplice. Il mio telefonino, quando si accende la mattina o sul telefono di casa, c'è scritto ridi alla vita che la vita divide. Cerco di vedere nella vita sempre il bicchiere, quello mezzo vuoto. Però il cellulare ci crea dei problemi, Luigi, non la stiamo sentendo. Ho sentito però questa frase che ha messo come per appena accende il suo cellulare: ridiamo alla vita che la vita ci sorride. Luigi, se proviamo a ripescarla, andiamo ad Angelo dalla provincia di Vicenza. Buongiorno. Buongiorno, una domanda per il dottor Gargiulo. Io ho due figlioni di 14 e 19 anni. Quando dovrei cominciare a far controllare periodicamente la pressione arteriosa? Ma secondo me si può già cominciare, nel senso che la ragazza di 19 anni sicuramente un controllo di pressione, anche perché valutiamo poi la familiarità, se in famiglia ci sono dei casi di ipertensione ancora di più è il momento di controllarla, ma se no gliela facciamo controllare, se i valori sono buoni poi si rimisurerà periodicamente, almeno una volta ogni 2 o 3 anni, perché fino a che non arriva ai 30 anni quando comincerà a essere più frequente il controllo. La ragazza di 14, stesso discorso, si fa una misurazione adeguando le tabelle alla costituzione fisica e all'età e otteniamo il dato in relazione a quello che è la misurazione ottenuta dalla ragazza. Però direi che già si può cominciare, non come un'ossessione, ma come un controllo periodico ogni 2 o 3 anni. Anne-Marie, che ci chiama dalla provincia di Grosseto, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno. Allora, io ho imparato anni indietro di seguire yoga della risata, che è una tecnica creata da un medico indiano e che ha tutti i benefici immaginabili: abbassa la pressione, aumenta le endorfine, la serotonina, ti fa stare bene in tutti i sensi. Io oggi ho 71 anni e quando ho fatto l'esame di sangue, la dottoressa al laboratorio dice: non ho mai visto una persona con questi valori. E sto bene in tanti sensi e ho avuto tanti problemi di salute, una ventina di interventi nel giro di 5 anni, sono stata malissimo proprio e oggi sono felice, pratico yoga risata, sono un insegnante, lo faccio fare corsi anche per operatori sociosanitari che lo portano nelle loro strutture, con risultati incredibili. Continuano a ringraziarmi perché non pensavano mai di poter fare con una cosa così semplice benefici, ecco, così enormi. Anne-Marie, una cosa così semplice che dà grandi risultati. Dobbiamo ritornare o ripartire dalle cose semplici. Adesso dobbiamo andare a sentire che cosa succede sui mercati e poi il meteo, ma prima dei mercati. Abbiamo parlato di sorriso, di respiro. Aggiungiamo anche il pensiero e la meditazione. Dovrei parlarne prima o poi. Tanto vale che usi me. Non riesco a concentrarmi lì dentro. Riesco solo a pensare alla mia stanza da meditazione e a come arredarla. Mi vuoi sfottere? E tu vuoi sfottere me? La stanza da meditazione è dentro di te, mandibola. Devi arredare quella. Parli sempre per slogan autoadesivi. Certo, ed eccotene un altro. Devi imparare a scegliere i pensieri allo stesso modo in cui scegli i vestiti ogni giorno. Ecco, questo è un potere che puoi coltivare. Se ci tieni tanto a venire qui a controllare la tua vita, lavora sulla mente. È l'unica cosa che devi controllare. Se non riesci a dominare i tuoi pensieri, sei nei guai per sempre. Io ci sto provando. Ecco, appunto, è questo il problema. Smettila di provarci, arrenditi. Va fuori in giardino e siediti lì. E ferma la tua mente, poi guarda che succede. Perché non lasci che succeda e basta? Essere e benessere. È la musica che mi fa sognare, è la musica che mi fa cantare, che mi salva quando non so dire amore. È la musica, musica. Dottor Gualerzi, respiro, meditazione e musica. Il nostro cuore è un po' un artista. Gli piacciono le cose belle. Assolutamente sì, ma questo banalmente lo vediamo tutti i giorni e sicuramente andare verso le nostre passioni, ciò che ci piace, fortifica la nostra salute. Abbiamo Manuela che ci chiama da Como, buongiorno. Manuela, buongiorno. Buongiorno. Guardi, io in teoria sono una persona che non ha dei grossi problemi, ho una famiglia bellissima, sono in pensione, quindi ho del tempo che posso dedicare a me stessa, faccio delle belle passeggiate, eppure io sto sempre male. Io, il mio cuore è sempre agitato, oppure mi sembra che mi scappi via, e improvvisamente mi viene una tachicardia terribile, sono andata più volte a farmi vedere, non mi trovano niente. Non le danno soddisfazione, come si dice, Manuela. Sto male, Nicoletta, sto male. Vediamo se il dottor Gualerzi riesce a darle qualche indicazione. Dottor Gualerzi, per fortuna il cuore funziona bene, ma fa le capriole, salta in gola, uno ha questa sensazione di malessere e si sente talvolta in colpa perché, come ci racconta Manuela, non ha delle ragioni, perché dice o tutto, si confronta anche con delle situazioni di persone, di conoscenti che hanno dei problemi seri o di salute o di lavoro e ci si sente un po' quasi a disagio, ma quando il cuore si comporta come in questo modo, naturalmente la preoccupazione aumenta. La preoccupazione stessa in un certo senso automantiene questa situazione. Premettiamo che non tutti i disagi del cuore sono legati alla nostra mente, anche se spesso facendoci un'autodiagnosi risulta un po' difficile. Attualmente non ci spieghiamo come mai si sta male quando apparentemente abbiamo tutto. Bisogna vedere se quello che riteniamo tutto sia veramente quello che invece vogliamo avere intimamente. In altre condizioni abbiamo parlato anche in altre trasmissioni di quanto tutti gli organi sono collegati. Alla radioascoltatrice mi verrebbe da dire, non so, guardare anche lo stomaco, molto spesso anche disturbi di stomaco o alterazioni, diciamo, della digestione possono causare queste aritmie. Poi esistono anche dei problemi invece più specifici intrinseci nel cuore. Non bisogna avere un cuore che funziona male o malandato perché faccia delle capriole. Le capriole possono venire anche nei ragazzi giovani e che è un cuore sano, quindi non mi allarmerei per questo, però insomma andrei a analizzare un pochino la situazione più a 360 gradi, perché siamo tutti in una rete, il cuore è immerso in un sistema e viene condizionato da tutti i nostri organi. Massimo ci chiama da Verona, 800 24 00 24, benvenuto. Sì, Nicoletta, buongiorno. Buongiorno a lei, Massimo, come sta? Allora, io sto bene. Bene, questo però mi piace. Le spiego, è già ormai qualche anno praticamente, sarà un po' anche per il carattere un po' ansioso del mio, poi sai, il lavoro, tutto questo che tutto poi la vita che ci circonda, che ogni tanto dopo dei periodi abbastanza dove l'ansia preme un po' di più, anche il fatto proprio della respirazione non corretta, perché sento che non respiro bene. Sì. Allora io praticamente, assieme anche al mio dottore eccetera, mi ha insegnato tutta un'attività di training autogeno, mi sembra che si chiami, di esercizi della respirazione che faccio ogni tanto. Dopo ho fatto anche un piccolo periodo di praticamente ho preso della sertralina per 4-5 mesi un po' per calmare questo discorso, questo periodo qua. Infatti stavo benissimo, eccetera. Adesso che ho smesso, però mi sembra che stia un po' ricominciando. Non c'è qualcosa di omeopatico, non medicinale, che mi possa dare lo stesso effetto, lo stesso effetto della scelta della linea, ad esempio. Allora, Massi, io proprio sento, scusi, sì, i muscoli, proprio che mi si bloccano i muscoli, a volte del diaframma proprio, sento che in alcuni casi non ha... i muscoli, perché analisi, cuore, tutto perfetto. Tutto perfetto. Sì, sono sì, come sì, un corallo, ma dottor Gargiulo, sicuramente. Una domanda, quella di Massimo, che lei si sentirà ripetere spesso. Ma dottore, non c'è qualche cosa di... Beh, bisogna fare una accurata distinzione. Farmaci come la sertralina sono farmaci che vengono prescritti dal medico curante o dallo specialista e servono per curare determinati disturbi che sono legati proprio ad un'alterazione. Non dimentichiamoci che noi qualche volta confondiamo un po' la nostra psiche, tutte quelle sono le sensazioni e le emozioni, ma non pensiamo che sotto c'è sempre un substrato biochimico che possiamo modificare o con la parola, quindi la terapia cognitivo-comportamentale, o con i farmaci, o meglio ancora con l'associazione dei due. E allora, se la sertralina funzionava così bene, forse bisognerebbe riprendere il percorso insieme allo specialista per riniziare una terapia, portarla avanti per un certo periodo e poi diminuirla gradualmente e lentamente. Ci sono dei rimedi che sono rimedi tra virgolette più naturali, però non confondiamo il naturale con il sicuro, perché tante volte rimedi cosiddetti naturali possono potenzialmente essere tossici ugualmente. Allora io direi, inquadriamo bene il disturbo partendo dal sintomo e poi affrontiamo il disturbo con i farmaci, con la terapia cognitivo-comportamentale, e nel momento di uscita dalla fase terapeutica più importante, allora aiutiamoci con rimedi un pochino più blandi, naturali o no. Dottor Gualerzi, dottor Gargiulo, bisogna di dare qualche indicazione ai nostri ascoltatori, perché noi stiamo portando avanti questo discorso oggi. In fondo il nostro cuore può essere un po' la cartina tornasole del modo in cui noi reagiamo allo stress. Insomma, lui si fa sentire o accelerando il battito oppure con picchi pressori, questi... possiamo solamente riconoscerli quando li misuriamo, perché noi sappiamo che l'ipertensione non dà segni. Allora, vogliamo dare qualche indicazione ai nostri ascoltatori per una sorta di test di autovalutazione? Dottor Gualerzi, in un intervento nei giorni scorsi lei ha sottolineato che il nostro cuore batte più veloce rispetto a qualche decennio fa, siamo tutti più accelerati, questo è un effetto del logorio della vita moderna, diciamo così. Sì, assolutamente, un buon test è proprio quello di rilevare le pulsazioni a riposo e quindi diciamo che una persona rilassata, che non ha degli stimoli come quelli legati allo stress, in realtà dovrebbe avere circa tra i 60 e massimo 80 pulsazioni a riposo. In più non è tanto, un po' vale il discorso della pressione, noi spesso guardiamo il dato brutale, cioè rileviamo il dato e vediamo, e molto importante sono le fluttuazioni. Quindi ad esempio un altro test è quello di andare a vedere se ad esempio respirando profondamente la nostra frequenza varia come frequenza, come intensità e come frequenza. La persona che ha un corretto assetto neurovegetativo, quindi che ha un buon assetto degli ormoni e del sistema nervoso autonomo, quello che diciamo viene influenzato dallo stress, avrà che la propria frequenza cardiaca fluttuerà in funzione del proprio respiro. Quando questo non avviene, diciamo che sostanzialmente esistono degli stimoli che la fanno mantenere costantemente più alta, e questa è una cartina di tornasole di un'attivazione sbagliata che il cuore può avere, diciamo, sotto stress o sotto stimoli negativi. Dottor Gualerzi, io cosa devo fare? Mi spieghi praticamente che cosa faccio? Se lei mette le dita sul polso e quindi rileva le sue pulsazioni, può iniziare a respirare, a inspirare e ad espirare profondamente, osserverà che durante l'inspirazione profonda la frequenza tendenzialmente aumenterà, mentre durante l'espirazione protratta e profonda i propri battiti tenderanno a ridursi leggermente. Questa è una buona situazione, e anzi proprio le tecniche di respirazione servono proprio per allenare la nostra frequenza cardiaca ad essere più duttile, più diciamo a seguire le nostre emozioni, a seguire i nostri bisogni. Quando questo non avviene c'è bisogno un po' di allenamento per sbloccare questa rigidità in cui la frequenza cardiaca, di cui la frequenza cardiaca è vittima, e quindi che non ci rende possibile di adattare il nostro cuore alle nostre situazioni, alle nostre emozioni. Quindi possiamo invitare anche gli ascoltatori nel tempo in cui andiamo a sentire le informazioni sul traffico a misurare la frequenza inspirando ed espirando, e chiamateci subito all'800 24 00 24 per dirci che cosa succede. Io vi aspetto. Essere e benessere. Paolo, secondo te il caffè fa alzare il colesterolo? Dipende. Il caffè normale lo fa abbassare, lo fa alzare, e il caffè decaffeinato lo fa abbassare, oppure il contrario. No, tu lo fa alzare, non lo so. Mi sono arrivati i risultati delle analisi che ci hanno fatto fare. C'ho il colesterolo a 300. La cosa è smettere di mangiare porcate. Ho deciso, adesso mangio solo verdura scondita e vedrai che il colesterolo scende. Ma non è solo quello che mangiamo. Nuove ricerche dimostrano che esiste una correlazione tra colesterolo e stress. Dottor Gualerzi. Sì, in realtà dobbiamo sapere che circa l'80% del colesterolo che abbiamo e che rileviamo con gli esami del sangue è quello che lo stesso organismo produce. Quindi in realtà solo il 20% sarebbe poi frutto di quello che mangiamo. E questo in un certo senso non è che deve creare degli alibi, ma deve farci capire quanto sia più complesso il meccanismo di controllo. Lo stress è uno stimolo molto importante per produrre il colesterolo, che è un ormone, comunque una sostanza che è la precursore, che fa da precursore a molti ormoni che servono appunto nelle situazioni di stress, però quando appunto abbiamo detto più volte gli stimoli stressanti superano il dovuto, ecco che il colesterolo potrebbe anche alzarsi in maniera inappropriata all'interno del sangue per uno stimolo legato allo stress, quindi ne produciamo di più e ce lo troviamo più alto nel sangue. Sì? No, dottor. No, spesso quindi la condizione in questi casi non è curare solo la dieta, ma anche guardare un pochino come viviamo e quindi fare qualcosa per evitare e per ridurre la produzione endogena, quindi interna, del colesterolo. Dottor Gargiulo, se vengo da lei, che colesterolo dovrei augurarmi di avere? Ma dunque, intanto diciamo che in questo periodo il colesterolo sta vivendo una stagione un po' complessa. Sono le ultime ricerche, le ultime scritti che ci sono stati, che vengono dalla Francia. Però abbiamo dei dati precisi lo stesso. Anche gli stessi francesi confermano che il valore del colesterolo totale deve essere inferiore a 200, il valore del colesterolo LDL, cosiddetto colesterolo cattivo, deve essere inferiore a 100. Con questi due parametri riusciamo a mantenere sotto controllo tutto quello che sono i danni che il colesterolo alto può provocare. Ogni quanto bisogna misurare il colesterolo? Se i valori sono buoni, senza uso di medicine, possiamo controllarlo una volta l'anno tranquillamente dopo i 40-45 anni. Se invece i valori risultano un po' alterati, lo ricontrolleremo magari a 3 mesi dopo aver cambiato alcune abitudini di vita, poi dopo 6 mesi e poi entriamo nella linea. Lei sa che io ho un amico che quando deve controllare il colesterolo, la sera prima digiuna, oppure fa, devo dire, forse tutta una giornata, insomma, si tiene a stecchetto. Non basta. Quindi mangiamo pure tranquillamente. Assolutamente, dobbiamo avere le nostre abitudini di vita normali per avere dei dati rilevati dal sangue che siano i più precisi possibile. Il colesterolo non viene influenzato, ma ad esempio la glicemia sì, potremmo cercare di, mi passi il termine, fregare il nostro corpo questo sistema, ma non è così. Ma noi vogliamo comunque sederci a tavola. 5 mosse da fare a tavola per la salute del cuore. Intitolerei così lo spazio che voglio condividere col dottor Avoledo, che è in linea con noi. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno. Naturopata, noi ci sediamo a tavola perché vogliamo coccolare il nostro cuore. Gli piace una dieta varia ed equilibrata, ma anche lui, come noi, ha le sue preferenze. Sì, foriamo allora 5 dritte alimentari benefiche per la salute di cuore e arterie che ognuno di noi può mettere in atto con grande facilità, a partire da subito. La prima è: mangiamo più fibre. Dovremmo arrivare a 30 grammi anche di fibre al giorno e ci arrivano in pochi. Le ricerche dimostrano che più fibra si assume, più si è più protetti da attacchi di cuore, perché una dieta ricca di fibre contribuisce ad abbassare la pressione sanguigna e il livello di colesterolo totale. E questo per il colesterolo, si raccontava prima, il colesterolo di origine alimentare, perché le fibre lo legano e lo elimino attraverso l'intestino senza che venga assorbito nel sangue. Benedette fibre, allora. Come si sono assume proprio più fibre? Mangiando molta frutta e verdura fresca e acquistando quasi il 100% il più possibile di cereali integrali, pane, pasta, riso e altri cereali integrali. Ricevuto. Secondo consiglio: portiamo in tavola più salmone e anche altri pesci grassi. Il salmone magari costa un po' in questi momenti in cui di ristrettezze economiche magari non è l'ideale, ma ci sono pesci economicissimi o più economici come le sardine, lo sgombro, il pesce azzurro, che sono ricchissimi di acidi grassi omega 3 che aiutano a evitare, abbassano il rischio di malattie cardiache, riducendo infiammazione e i livelli di trigliceridi e anche migliorando i livelli di colesterolo buono HDL. un paio di volte alla settimana, magari sostituendo la carne, i salumi, i formaggi con salmone o altri pesci grassi. Consiglio numero 3. Consiglio numero 3. Terza mossa. Un condimento a questo punto. Spolverizziamo sì. ogni giorno sui nostri piatti un po' di cannella, che è ricchissima di antiossidanti mm-hmm. e secondo una recente ricerca aiuta a ridurre i livelli di colesterolo cattivo fino al 26%. E la cannella abbassa anche la pressione, sia la minima che la massima. Questa cannella, la fantastica. La cannella meravigliosa aiuta a tenere sotto controllo il peso e anche la glicemia, di cui diceva poco fa il dottor Gargiulo. Troppa grazia. Quindi spolverizziamola con generosità su ogni portata la nostra fantasia ci suggerisca. Con le mele, ad esempio. Sulle fette di ananas. Sulle fette di ananas. Dottor Gualerzi, ne dica una lei con la cannella. Rapido. Alla colazione la mattina nel latte. Nel latte, dai, allora, vada col quarto. 4. Eliminiamo i grassi trans dalla nostra vita. I grassi trans o trans esterificati o grassi idrogenati, come si dice, più o meno parzialmente, si trovano in una miriade di prodotti da forno commerciali come torte, biscotte e crackers, oltre ai cibi fritti come le patatine, vengono aggiunti non perché siano sani, ma perché rendono stabili e difficilmente degradabili, aggredibili dalle muffe i cibi per lungo tempo. Quindi leggete l'etichetta, i grassi trans sono particolarmente nocivi perché diminuiscono il colesterolo buono e aumentano quello cattivo, danneggiando le arterie. Un autogol. Infine, l'ultimo consiglio, che sembra banale, ma ascoltatemi, invece non è così, perché molte persone ignorano che il sale, diminuiamolo tantissimo, ma l'eccesso di sale è uno dei principali responsabili della pressione alta. Ha stupito anche me uno studio di qualche anno fa dell'Università della California, sì. che aveva messo in luce che riducendo di soli 3 grammi il quantitativo di sale al giorno, gli americani avrebbero potuto ridurre di 100.000 morti di infarti e ictus all'anno. Quindi fermiamoci su questo dato. 5 mosse le trovate naturalmente anche nella pagina di Essere Benessere. Per oggi è tutto. Grazie al dottor Avoledo, al dottor Gualerzi, al nostro dottor Carlo Gargiulo. Noi come sempre ci sentiamo domani. Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Faggin in redazione. A domani. Una civiltà che non sorride è una civiltà infelice. E io trovo che ridere, proprio ridere, è una cura, è parte della guarigione. E infatti, non a caso, un'altra delle terapie che ho scoperto in India è la terapia del sorriso, no? Del ridere. La mattina, in un parco vicino a casa, una delle prime cose che notai, a parte gli uomini che davano da mangiare alle formiche, cosa che mi sorprese moltissimo, c'era questo gruppo che dopo aver fatto un po' di yoga, a un certo ordine, alzavano la mano e dicevano: e quale modo migliore per cominciare una giornata che magari finisce in un ufficio ad aria condizionata. Per cui il consiglio che do a tutti è cominciare ridendo e finendo ridendo, con una gran risata. Radio 24. La passione si sente. Essere e benessere.